Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Andiamo all'Enea di Portici questa sera per parlare di una sorta di serra high-tech pensata per studiare le piante del futuro e la loro coltivazione in ambienti privi, diciamo così, delle caratteristiche fondamentali appunto per la crescita delle piante, come gli ambienti chiusi, incluso un domani quello delle navicelle spaziali. La serra high-tech di cui parliamo è frutto di un progetto di ricerca pubblico-privato che si chiama Tripode, e per parlarcene c'è in linea con noi l'ideatore di questo oggetto, agronomo ricercatore dell'Enea, Luigi D'Aquino. Buonasera D'Aquino. Buonasera a lei. Allora, senta, ci descriva per cominciare questo oggetto, ce lo faccia un po' vedere, ecco. Sì, lei ha nominato sotto forma di serra, in realtà non è esattamente una serra, nel senso che non è un semplicemente un ambiente protetto in cui si coltivano le piante, ma è un microcosmo, quindi un ambiente nel quale i parametri ambientali vengono condizionati e, in maniera tale che la pianta cresca in maniera naturale. Insomma. Cioè voi potete condizionare ogni singolo parametro importante per la pianta, quali sono quelli che controllate? Sicuramente la luce, intesa come qualità, come intensità e anche durata. Quando diceva qualità intende proprio che voi potete cambiare la tonalità della luce, sì, no? Le lunghezze d'onda, insomma, fornire singole lunghezze d'onda o mix di lunghezze d'onda. Poi la temperatura, ovviamente, quindi sia il livello di temperatura sia l'andamento della temperatura tra il giorno e la notte, e l'umidità relativa anche, questo per la parte aerea, e poi per la parte radicale ancora la temperatura, il livello di bagnatura del terreno, l'acidità, insomma il potenziale ossido riduttivo, e questi sono i principali, diciamo. Ecco, e una cosa importante che si intuiva da quello che lei stava dicendo è che voi potete controllare questi parametri separatamente per la parte aerea e per la parte radicale. Questa sì, è una novità, giusto? Sì, fondamentalmente il concetto di microcosmo nasce fondamentalmente da questo. Non è semplicemente una teca all'interno del quale si mettono le piante, ma è una struttura organizzata in maniera tale che l'ambiente in cui vive la parte aerea, le foglie per intenderci, e l'ambiente in cui vivono le radici sono comunicanti, ma sono separate e vengono gestiti in maniera indipendente, come avviene in natura. Come avviene effettivamente appunto in natura. Ecco, senta, perché è così importante studiare il comportamento delle piante al variare di questi parametri, alcuni dei quali si capiscono, l'umidità del terreno, siamo tutti abituati all'idea che il terreno si bagni, ma per esempio la qualità o le lunghezze d'onda della luce, quando una pianta è sotto al sole naturalmente non possiamo scegliere nulla, no? Ma non si dovrebbe semplicemente riprodurre lo spettro solare? Beh, in realtà noi sappiamo che i pigmenti che assorbono la luce, che consentono poi alle piante di attivare tutto il loro metabolismo, sono più sensibili a particolari lunghezze d'onda, quindi somministrare solo quelle è un'operazione dalla quale ci si aspetta degli aumenti di resa. In realtà poi non è così semplice, perché anche le lunghezze d'onda, diciamo, a cui le piante sembrano essere meno sensibili, hanno comunque delle funzioni fisiologiche che vanno studiate, quindi lei capisce che ogni singola specie di pianta, certo, richiederebbe un mix di lunghezze d'onda, certo, e per questo chiaramente bisogna fare degli studi specifici per poter dosare in maniera precisa la tipologia di luce che viene data alla pianta in funzione di quello che si vuole ottenere dalla pianta. Quindi c'è proprio un aspetto legato, diciamo così, alla salute della pianta anche, certo, e alla sua crescita. Ecco, una cosa banale, sappiamo la maggior parte delle piante sono verdi, per cui in un sistema chiuso, se io voglio produrre, è inutile che gli do questa luce verde, spreco energia inutilmente, sì, perché tanto questa inizialmente si cerca di eliminare la componente verde, per questo in genere queste piante che crescono in questi ambienti vivono in questi ambienti dalla tonalità rossa, sì, abbastanza, sì, violacea, insomma, violacea. Ecco, questo per dire che negli ambienti chiusi è importante somministrare solo quello che serve, perché si paga la luce, non so come dire, consuma energia, sì, la produzione, esatto, di luce, quella del sole è gratis, ma quella negli ambienti chiusi no. Quindi questo è il problema di capire che cosa veramente serve alla pianta, e per questo bisogna studiare in modo da dargli esattamente quello che gli serve. Senta, le ricadute quindi quali sono, queste conoscenze dove potrebbero essere poi applicate? Allora, diciamo che la struttura è pensata per applicazioni di ricerca nei campi, certo, più disparati, alla fisiologia vegetale, alla patologia vegetale, alla parassitologia, all'ecofisiologia, però questo tipo di apparato può essere utilizzato anche proprio come struttura per far crescere le piante, ovviamente può essere utilizzato in quelli che noi chiamiamo ambienti di coltivazione non convenzionali, quelli dove normalmente, per intenderci, non c'è il sole, c'è il suolo, non c'è la luce solare, come possono essere gli ambienti al chiuso, i supermercati, le metropolitane, le fabbriche, o al limite anche, ecco, navicelle spaziali o insediamenti extraterrestri. Ecco, lì però dovete prima mettere a punto anche l'antigravità, credo, no? Per fare una simulazione completa. Navicelle, laddove invece sulle stazioni extraterrestri chiaramente ci saranno la gravità, ci sarà la gravità artificiale. Senta, un'ultima domanda, ma non è che un domani ci verrà invece da adattare le piante alle condizioni di luce che ci sono? Forse sarebbe prima il caso di capire come le nostre piante reagiscono alla luce e all'ambiente esterno, per capire anche poi dopo come fare ad adattarle. Benissimo, grazie d'Aquino. Buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.